riguarda l'apertura di Perugia nel rispetto delle distanze di sicurezza. Alessandro Trevisani, GR Puglia. In occasione della giornata nazionale dei musei, il Marta di Taranto ha presentato la sua piattaforma digitale in 8 lingue. Il Marta di Taranto si è aperto al mondo. La giornata internazionale dei musei, infatti, è stata celebrata con la presentazione della nuova piattaforma digitale del sito culturale tarantino. Eva degli Innocenti, direttrice del Museo Marta di Taranto. Una piattaforma per l'internazionalizzazione, una piattaforma che presenta 8 lingue, l'unico museo nazionale italiano a avere tutti questi contenuti in 8 lingue, di cui le principali lingue europee, poi anche russa, cinese e araba. All'iniziativa, rigorosamente via internet sul sito del Museo Ionico, ha partecipato, oltre alla Presidente della Regione Puglia e Sindaco di Taranto, anche il Direttore del Museo Archeologico di Napoli. L'iniziativa è stata arricchita da due testimonial d'eccezione, ancora Eva degli Innocenti. Un omaggio di Michele Riondino al Marta e poi anche un omaggio del cantautore Vinicio Capossela, proprio al Marta. Viaggio virtuale va bene, ma il fascino evocativo di una visita tra i corridoi e le sale che custodiscono l'immenso giacimento culturale è certamente un'altra cosa. Quando riaprirà il Museo Marta? Allora, noi a maggio staremo chiusi perché stiamo utilizzando tutto questo tempo per poter riaprire finalmente in sicurezza e quindi siamo a lavoro ogni giorno per poter garantire un Marta sicuro e possiamo dire proprio la casa di tutti. Mimmo Spina, TGR Puglia. Una notizia luttuosa per noi: è morto Elio Macarrese, storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno e fratello della nostra collega Rossella. A lei, alla famiglia, l'abbraccio di tutta la redazione. Buona giornata a tutti voi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia. Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 7:30, bentornati alla